got a slick chick. She a neat chick, but she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the very first time. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man. Yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my. Clickety click, I'll stick you. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, yeah. You know she's a stick? Yeah, yeah. My, yeah, yeah. I still got you. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. I still chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama. Yeah, yeah, yeah. Click, click, click, I still chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Ben ritrovati e ben ritrovati a una nuova puntata di Slick Chick su Wombat Radio, Radio Wombat, come volete. E oggi è mercoledì 28 giugno, finalmente un giorno piovoso, l'abbiamo aspettato per un bel po' e finalmente è arrivato, e infatti sembra un po' autunno, ma direi che non ci possiamo assolutamente lamentare, anzi. E, beh, sì, no, in effetti non è dedicata alla pioggia la puntata di oggi, anche se il clima lo imporrebbe un po', anche perché la puntata sulla pioggia l'ho già fatta, i più fedeli se lo ricorderanno. E no, in realtà oggi parliamo di strade, strade varie, sia strade come termine generico, strade, autostrade, viali, controviali, stradine, vicoli, eccetera, sia anche come precise strade, cioè proprio la via del tipo, nome, tal, dettagli, eccetera. Vedremo che ci sono diversi gruppi e diversi artisti, oddio che brutto termine, che hanno dedicato il proprio lavoro a appunto una precisa strada, un preciso vicolo, qualcosa, un angolo anche spesso tra una strada e l'altra, e vedremo insomma il perché. Spesso insomma si capisce come mai questa strada abbia portato la tal persona a ricordarsi di lei e perché ne ha voluto parlare. Iniziamo subito con i Kraftwerk e con un pezzone che io vi voglio far sentire integralmente perché ne vale la pena. È parecchio lungo, ve lo dico subito, sono 20 minuti e quindi ho deciso di piazzarvelo all'inizio, così non se ne parla più. Quindi mettetevi comodi e abituatevi a un bel po' di rumoretti e cose strane alla Kraftwerk, perché ne avrete per circa 20 minuti. Il pezzo in questione si intitola Autobahn, ovvero autostrada in tedesco, abbastanza facile. L'album è appunto omonimo Autobahn del 1975, il quarto album di Kraftwerk, l'album che dà un po' una svolta. Come vedremo, prima c'erano dei suoni parecchio più grezzi e beh, in realtà si stava molto più sullo strumentale, anche se non classico. Adesso i Kraftwerk danno fondo a un bel po' di macchinette, molte delle quali inventate da loro, e la cosa si fa parecchio più appunto tecnologica e macchinettosa. La title track, insomma, Autobahn, appunto, dell'album è una suite, si può dire così, della durata appunto di 22 minuti, come vi dicevo, e vede i Kraftwerk adoperare quasi tutti gli strumenti che hanno a disposizione per rappresentare un viaggio lungo un'autostrada. Per la Per l'esattezza, si tratta del viaggio che il gruppo ha fatto per la prima volta nella A555 che porta da Colonia a Bonn. La copertina dell'album è disegnata dal pittore Emil Schulz e mostra un'autostrada che si snoda su due vallate ed è percorsa da un maggiolino bianco, una Volkswagen, e da una Mercedes nera. Cito da storiadellamusica.it: con questo album Raff e Florian decidono di abbandonare le elettroimprovvisazioni del passato a beneficio di una disciplina e autoregolamentazione musicale dai connotati fortemente mitteleuropei, schiudendo con questa mossa le porte dell'elettrominimalismo pop al grande pubblico. Anche visivamente la band dà un taglionetto al passato, via capelli lunghi, barbe incolte e jeans. Distaccarsi dal prototipo di pop rocker anglo-americano è esigenza primaria. Nasce l'algida figura di superuomo mitteleuropeo. Thank you. an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. rieccoci dopo questa lunga, lunga suite dei Kraftwerk, lunga come l'autostrada tedesca, crucca. E adesso passiamo a un'altra strada, beh, direi altrettanto lunghetta. E no, scusate, nel frattempo il computer si lamenta e forse impazzisce perché dopo Kraftwerk non vuole più sentire altro. Bene, si è ripreso. Appunto, dicevamo, un'altra strada, beh, piuttosto lunga, perché parliamo della Route 66, la Route 66, che praticamente è una strada che attraversa circa due terzi degli Stati Uniti. In particolare noi ci arriviamo a questa strada attraverso un pezzo dei Cramps che si intitola appunto Route 66, Get Your Kicks On, il sottotitolo, dall'album Flame Job del 1994. Ma in realtà, come abbiamo detto già altre volte in questa trasmissione, i Cramps ripropongono spesso pezzi non loro di altri, ed è anche questo il caso perché questo brano è uno standard rhythm blues, beh, molto famoso, composto nel 1946 da Bobby Tropp. Il testo segue appunto il percorso della Route 66 che dicevamo, che come ricordavo prima attraversa più o meno due terzi degli Stati Uniti e va dall'Illinois alla California. Segue questo percorso letteralmente perché è stato scritto durante un viaggio di una decina di giorni lungo questa strada di Bobby Tropp con la moglie. La prima registrazione di questo brano è stata eseguita da Nat King Cole, ma poi ne sono state eseguite moltissime versioni fino ad arrivare a quella malandrina dei nostri amici Cramps. Hey, if you ever plan to fly out west, travel my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kind of tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Let's go. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kind of tip? When you make that Canadelic trip, I get your kicks on Route 66. I said I'd get your kicks on Route 66. Yeah, get your kicks on Route 66. Ecco, questa era la Route 66 e ora invece parliamo di una strada che non è propriamente una strada con un nome o cognome, anche se in qualche modo ci sono dei riferimenti un po' precisi, ma è una strada un po' più generica. Parliamo di Lonely Street, un brano originariamente di Andy Williams. Noi ci ascoltiamo invece la versione di Jim Vincent, che secondo me spacca tutto. Questo brano è un riferimento alla famosissima Heartbreak Hotel, una hit di Elvis che non potete non conoscere, che a sua volta era ispirata a un misterioso giovane uomo che nel 55 si suicidò buttandosi di sotto dalla finestra di un hotel, distruggendo ogni traccia di sé e lasciando solo un biglietto con scritto I walk on a lonely street, cammino su una strada solitaria. In realtà, però, questa è quello che ci viene tramandato da un bel po' di anni. Ma in realtà la storia non andò proprio così, pare. E l'autrice del pezzo di Heartbreak Hotel, Mae Hexton, diciamo che la reinterpretò un po' a modo suo, dicendo «Let's put a Heartbreak Hotel at the end of that lonely street». Mettiamo un hotel del cuore infranto alla fine di quella strada solitaria. Insomma, l'ha fatta un po' a tavolino. La vera storia, invece, parla di un ragazzo che un giorno si presenta alla stazione di polizia e confessa una serie di rapine. Il suo racconto è triste e romantico. Era follemente innamorato di una donna che gli ha spezzato il cuore, si è lasciato andare al terribile mondo del crimine. La storia conquista i giornali, insomma siamo nel 55, ricordiamocelo, non che adesso invece andrebbe diversamente, ma forse anche sì. Comunque al tempo finisce sui giornali. Il ragazzo, che è pure un artista cosiddetto, oltre a farsi un po' di carcere, scrive un'autobiografia struggente che parla di quell'epoca degli anni 50, appunto, dove i ragazzi se ne stavano agli angoli delle strade a fumare sigarette con un vuoto addosso che non sapevano colmare. Walking in a Lonely Street, appunto. Poi il tipo si riprende un po', esce di galera, tutto sembra migliorare, ma quella stretta nel cuore non se ne va e un giorno si ritrova a El Paso con una pistola puntata verso il proprietario di un negozio di liquori, che però lo uccide per primo, come già peraltro aveva fatto con altri rapinatori meno romantici ma altrettanto sfortunati. Quindi questa la dedichiamo a questo poveretto ed è Jim Vincent con Lonely Street. I'm looking for that lonely street. I got a sad, sad tale to tell. I need a place to go and weep. Where's this place called lonely? Love this lonely street. A place where there's just loneliness, where dim lights bring forgetfulness, where broken dreams and memories meet. Where's this place called lonely? Love this lonely street. Perhaps along that lonely street, the someone such as I came to bury broken dreams and watch an old love die. If I could find that old lonely street, dim lights bring forgetfulness, where dreams and memories meet. Where's this place called home? i nostri social Wombat, il sito wombat.noblogs.org, la pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook, per chi proprio non può farne a meno, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta, postawombat@insibere.net. Mi raccomando, scriveteci, fatevi sentire, battete un colpo e rimanete aggiornati assolutamente sul pezzo, guardando l'importante sito dove appunto potete trovare tutte le novità e cambiamenti vari, ma insomma già lo sapete ormai se ci seguite da un po'. Da Jim Vincent con la sua versione di Lonely Street passiamo adesso a un altro sound, perché ci sentiamo uno swingatissimo Count Basie, in particolare Avenue C, inciso per la prima volta nel 49 su un vinile a 10 pollici chiamato Count Basie Dance Parade. Lui si è innamorato quando ha saputo la mia situazione, perché lui è entrato in negozio, ha salutato Salvarani, si gira e vede un ragazzino, dice: come mai questo ragazzino è uno bravi bene, non è uscito dal collegio, sua mamma batte, sua nonna batteva, mi fa: tu stasera mangi con me. E io ho detto: un altro finocchio che mi fa il filo. Qui era la strada dei finocchi, no? Dei travestiti, diciamo. Invece poverino voleva sapere la mia storia, allora gli sono raccontata. Alla fine è stato forte, perché mi fa: ora mi devi dire cosa hai provato quando hai capito la tua situazione, che non è mica tanto bella. E dice: di mamma mia che non è tanto bello, sapete? È che io non ho la tua cultura da spiegartelo. Io lo so quello che ho provato, ma non so spiegartelo perché non ho la tua cultura. Lui si mette a ridere e mi fa: no, mi piace la tua cultura di strada. Dimmi cosa. Cioè, guarda, mi sono sentito una merda. È dall'età che nascono i fiori. Belli, mi ha ucciso. Poi ha tirato fuori la famosa fave, non so se esistono ancora le fave. Le fave, esistono. Ecco perché si chiama, lo chiamavano fave. Aveva sempre sta fave in tasca, no? E ha preso questo appunto, perché le era uscita così la frase. Dopo parecchi anni l'ha messa in Via del Campo. Che Via del Campo sono tre storie, tanti non lo sanno. Allora, la prima storia è: Via del Campo c'è una graziosa e un travestito. Via del Campo c'è una bambina e una che sta iniziando a prostituirsi. Via del Campo c'è una puttana e mia mamma, la Lilli. quella è la storia vera di io sono il figlio della Lili, che era una bellissima donna, che dopo che hanno chiuso i casini era lì del campo, certo, al numero 5, interno 1. Anzi, quando poi esci, prenditi il numero 5, uh-huh, e c'è una M, vedrai una M sul portone, che lui diceva, non vuol dire Maria, vuol dire mignotta. Mi hanno messo in mezzo ai monumenti. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, ma sconfiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi, color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritere, a vederla salire le scale fino a quando il balcone è chiuso. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'eterno nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'eterno nascono i fiori. Questa, se ci fosse mai bisogno di presentazioni, era ovviamente Via del Campo di Fabrizio De André. Continuiamo su questo andazzo, proprio rimanendo su questi temi, perché ci ascoltiamo adesso 53rd and 3rd dei, originariamente dei Ramones, ma noi ci ascoltiamo la versione di un gruppo non tanto conosciuto che si chiama River City Rebels. L'album originario dei Ramones è appunto Ramones stesso, del 1976, e questo pezzo onestamente è proprio brutto, ve lo devo dire, è brutto. Ho cercato a lungo una cover che fosse meglio dell'originale, ma quando il materiale di partenza è quello che è, in effetti non è che si possono fare miracoli. Quindi, vabbè, sentitevelo così. Però il brano in realtà è interessante nella sua storia, perché Didi Ramon qui ci racconta dell'incrocio tra la 53esima e la terza strada a Manhattan, a New York, che era il luogo dove soleva prostituirsi per raccattare soldi per l'eroina, sto bravo ragazzino. Il testo è un capolavoro. Veramente un capolavoro. Pratica funziona a questo tipo: reduce del Vietnam, perché chiaramente è socialmente accettabile, è costretto a prostituirsi suo malgrado, ahimè nessuno lo sceglie mai. Incredibile peraltro, trattandosi di Ramon, diciamo che qualche, si capisce il perché. A un certo punto viene raccattato invece da un cliente, e il nostro invece di ringrazia che finalmente l'aveva raccattato, no, lo uccide con un coltello per provare al mondo di non essere gay. una storia di degrado, maschio, orgoglio e pigne nel cervello. I Ramones, d'altra parte, vanno presi così, se li leggi in senso autoironico sono meravigliosi, altrimenti ti viene da piangere. Ma noi vogliamo leggerli in senso autoironico e quindi ce li ascoltiamo con questo spirito. Invece questo che vi faccio sentire adesso è un pezzo che a me piace da morire e potrei ascoltarlo proprio all'infinito, quindi mi pregio di farvelo sentire anche a voi. Si tratta di Shane McGowan and the Pops. Shane McGowan ovviamente l'ex cantante dei Pogues e alle prese con il suo secondo disco da solista, se non sbaglio il secondo, insieme appunto ai The Pops. E che poi in realtà erano un po' alcuni vecchi Pogues rimescolati con parenti e amici, insomma sempre la solita cricca. E il pezzo si intitola Lonesome Highway, che più o meno insomma sempre siamo sulla strada della solitudine di qui sopra. L'album è The Crook of Gold del 1997 e non so bene perché, ma a me piace tantissimo. I love you so. Love. 42nd Street, erano gli Angelic Upstarts, forse li avete riconosciuti. L'album era Reason Why del 1983. Un saluto a Mr. Dalai Dama che ci ha mandato un sms di apprezzamenti per i Kraftwerk, per la lunga suite con cui abbiamo iniziato. E rimaniamo in Europa, non ci manca tantissimo alla fine della nostra scaletta, però per adesso rimaniamo in Europa, appunto in Britannia, con David Bowie, con Made of Bond Street. Bond Street è una delle principali vie dello shopping del West End di Londra. L'album invece da cui è tratto questo pezzo è di David Bowie, cioè è proprio, si intitola David Bowie 1967, è il primissimo album, non so se ve lo ricordate, quello dove lui era ancora uno sbarbatello col caschettino d'oro. E il testo, tra le altre cose, dice così: questa ragazza è la fanciulla di Bond Street, chiama i taxi, pranza con i dirigenti, denti scintillanti sorseggiano aperitivi, questa ragazza è sola, prende il treno da Paddington a Oxford Circus, compra il Daily News, ma i passeggeri non le sorridono. Le fanciulle di Bond Street non dovrebbero avere preoccupazioni terrene, le fanciulle di Bond Street non dovrebbero avere storie d'amore. This girl is made of lipstick, powder and paint. Sees the pictures of herself, every magazine on every shelf. This girl is made of Bond Street, hailing cabs, lunches with executives, gleaming teeth sip aperitives. This girl is a lonely girl, takes the train from Paddington to Oxford Circus, buys the Daily News, but passengers don't smile at her. Oh no, don't smile at her. This girl is made of loneliness, a broken heart, for the boy that she once knew doesn't want to know her anymore. And this girl is a lonely girl, everything she wants is hers, but she can't make it with the boy she really wants to be with all the time, to love all the time. This boy is made of envy, jealousy. He doesn't have a limousine, really wants to be a star himself. This girl, her world is made of flashlights and films. Her cares are scraps on the cutting room floor. And maids of Bond Street drive round in chauffeured cars. Maids of Bond Street, your clothes, eyes of stars. Maids of Bond Street shouldn't have worldly cares. Maids of Bond Street shouldn't have love affairs. Questo era Angelo Badalamenti con Dub Driving, tratto dalla colonna musica di Lost Highway, ovvero Strade Perdute, di David Lynch del 1997. Prima di continuare, ci mancano tre pezzettini soli, se non sbaglio. Sì, tre. Vi leggo un appuntamento che mi preme ricordarvi per la prossima settimana. Non ci sono tantissimi appuntamenti in vista, almeno che io sappia, che mi è pervenuto qui sull'agenda del Wombat. E se mancherò nell'agenda del Wombat, vi sprono a scriverci i vostri appuntamenti della Firenze liberata, dei posti liberati, alla casella che vi ho detto prima, posta wombat@insibere.net. Ma un appuntamento c'è e ve lo voglio ricordare, ed è martedì 11 luglio al Cinema di Castello, all'Arena Estiva peraltro, quindi insomma un buon momento per smettere di boccheggiare nell'afa di luglio, alle 21:30 appunto, la proiezione di Binxet sotto il confine, proiezione organizzata tra gli altri dal CSA Next Emerson. È un documentario sul Rojava di regia, per la regia di Luigi Dalif, spero che si dica così e non in un modo più anglofono, con voce narrante Elio Germano. Mi raccomando, venite, se volete saperne di più, vi do come estremi il sito del Next Emerson, csanextemerson.org. E allora, detto ciò, continuiamo e questa volta sì, ce ne andiamo via. Beh, d'altronde in Europa non c'eravamo più perché eravamo andati un po' persi sulle strade perdute, sì, teoricamente degli Stati Uniti, anche se Lynch ci porta in mondi un po' che di reale non hanno molto, ma adesso ritorniamo con i piedi in Europa, decisamente, in particolare proprio in Italia, perché il pezzo che vi faccio ascoltare adesso è di Joe Lally e si intitola Via Nomentana. Ebbene sì, Joe Lally ha vissuto un bel po' di anni in Italia, in particolare a Roma, come forse saprete. Joe Lally, il bassista dei Fugazzi, se vi fosse sfuggito. L'album è Nothing Is Underrated del 2007 e Joe Lally, riguardo a questo pezzo e un po' a Roma, dice: in qualche modo Roma era la Washington DC di 2000 anni fa. Mi sento come se fossi nel futuro e nel passato allo stesso tempo. Via Nomentana riguarda il trovare l'attuale civilizzazione in qualche dimensione del futuro. Un giorno scaveranno quello che è rimasto di noi. Beh, sì, vengono in mente un po' anche i nuovi scavi appena appena trovati. Vabbè, ma ascoltiamoci Via Nomentana e cosa ne pensa Joe Lally. Stones speak, bones surface, then recede. Patterns emerge, symbols, bits of scene. Fragments represent some other century. Ruminations on cultural debris. Via Nomentana. We find, we found, circle complete. All achievements, now dead and buried. Hidden treasure, toxic legacy. Via Nomentana. Via Nomentana. Thank you. Via Nomentana di Giolalli, appunto, e proseguiamo velocemente con un pezzo che secondo me non avete sentito mai, ma almeno credo, non è proprio famosissimo, diciamo, non in Italia almeno, e è un pezzo di Moondog, To West 46th, cosa ho detto? 46th Street, difficilissimo da dire, vabbè, comunque avete capito. E Moondog, nome d'arte di Louis Thomas Hardin, nato a Marysville il 26 maggio del 1916 e a Münster, morto a Münster l'8 settembre del 1999. Moondog, appunto, era cieco dall'età di 16 anni circa, anche se in realtà i suoi dettagli biografici sono un po' diversi, contrastano da versione a versione. Comunque c'è chi dice 13, c'è chi dice 16, c'è chi dice 17, ma tant'è, insomma, diciamo, da adolescente perde la vista in un incidente in campagna. Dalla fine degli anni 40 fino al 1974 visse come musicista e poeta di strada a New York, esibendosi più delle volte all'incrocio tra la 53esima strada e la sesta Avenue a Manhattan. In aggiunta alla sua attività di musicista e peraltro anche poeta, era noto anche per la caratteristica tenuta da vichingo che esibiva con tanto di elmo e corna, motivo per cui rimase noto per gran parte della sua vita come il vichingo della Sesta Avenue. In quegli anni si manteneva parzialmente, diciamo, si vivacchiava vendendo copie delle sue poesie e dei suoi saggi filosofici musicali, nonché i suoi spartiti. Dal momento che la sua postazione era accanto a un famoso nightclub della 52esima, Moondog aveva un nutrito seguito di fan ed era conosciuto dai musicisti jazz. Poi, insomma, in realtà in diversi presero a man bassa da lui e ne furono influenzati. La sua musica traeva ispirazione dai suoni della strada, come la metropolitana ad esempio, ma non solo. Era musica improntata alla semplicità, ma caratterizzata da quello che lui chiamava snake time, descritto come un ritmo scivoloso in tempi non consueti, tant'è che disse: non ho intenzione di morire in quattro quarti. L'opera di Moondog attirò presto l'attenzione di Arthur Rozinski, il direttore della New York Philharmonic negli anni 40, che ne produsse diversi 78 e 45 giri e tra l'altro anche un EP negli anni 50 e alcuni LP per diverse importanti etichette discografiche di musica jazz, compresa una strana raccolta di fiabe per bambini realizzata in collaborazione con l'attrice Julie Andrews, attenzione, Julie Andrews, Mary Poppins, nel 1957. Costantemente alla ricerca di nuove sonorità, Moondog inventò una quantità di strumenti musicali, inclusi una piccola arpa triangolare chiamata Oo, un'altra che chiamò Ooyazoo, credo si dica così, e forse il più noto strumento di Moondog, la trimba, ovvero uno strumento a percussione sempre di forma triangolare che il compositore ideò verso la fine degli anni 40. We'll be right back. Questo era Moondog, appunto, purtroppo un pezzo brevissimo, ma bastava secondo me per darci un assaggio. Proseguiamo super veloci con Billy Bragg and Wilco, il brano si intitola Christ for President, tratto dall'album Mermaid Avenue del 1998, un album che Billy Bragg ha fatto con i Wilco, che sono un gruppo, esatto. Esattamente. Tutti i brani hanno testi inediti scritti da Woody Guthrie, che abbiamo già ascoltato nella puntata sugli scioperi, era un bluesman folk piuttosto importante negli Stati Uniti degli anni 30-40. L'album è interamente un omaggio a Woody Guthrie, sono seguiti poi altri due album, ovvero Mermaid Avenue volume 2 nel 2000 e Mermaid Avenue The Complete Sessions del 2012. Il progetto trae il nome da un pezzo di Guthrie e Mermaid Avenue è anche il nome della strada a Coney Island dove Guthrie stesso e la sua famiglia vivevano. Parlando di strade, ce n'è una che non possiamo non citare, più che altro perché, anche se noi ce ne scordiamo, è lei che si ricorda di noi ferocemente e ogni giorno. Questa strada è Wall Street e per celebrarla, diciamo così, ci ascoltiamo un pezzo dei KMFDM che si intitola A Drag Against Wall Street. I KMFDM sono un gruppo industrial rock, diciamo così, che nel 93 pubblicano un brano intitolato A Drag Against War. Invece il 15 ottobre del 2011, giornata che ahimè molti di noi si ricordano per le sue tristi vicende repressive in Italia, i KMFDM rilasciano una nuova versione del pezzo in supporto al Global Day of Action, che era appunto la giornata di mobilitazione lanciata a livello internazionale appunto per il 15 ottobre 2011. Il pezzo si chiama A Drug Against Wall Street e è un tantino naif, come diverse cose uscite dal giro di Occupy Wall Street, ma vabbè, tant'è, ci accontenteremo. Ed è l'ultimo pezzo peraltro della puntata di oggi, quindi con questo vi saluto e vi lascio a mercoledì prossimo, ma vi ricordo velocemente i Slick Chick, gli orari sono alle 21 di tutti i mercoledì in diretta, e poi se invece il mercoledì non vi aggrada, vi ricordo che potete ascoltarla in replica venerdì alle 14 e sabato alle 16. Quindi mi raccomando, avete ben 3 momenti per ascoltarci in diretta, ma se proprio siete pigri, ascoltatevi il podcast quando volete, dove volete. Quindi vi lascio con questo, KMFDM, A Drug Against Wall Street, a mercoledì prossimo e sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!